per farla finita col giudizio di Dio di Antonin Artaud, interpretato da Oreste Scalzone, che abbiamo al telefono. Benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa, Oreste. Grazie a voi, e devo dire è una sorpresa, perché essendo io un po' esiliato dalla casa, da ex rifugiato di Parigi, ed essendo stato tra Terni, Roma, ospedali, cose, riunioni, in questo momento sto a Merate, dove è uno dei punti di raccolta di miei familiari, anche molto molto anziani. Non avevo aperto, che non sono così diligente informaticamente, le email da giorni, quindi per me è una sorpresa. E devo dire bella. Oreste, avevo scelto questa giornata perché intanto prima è andato in onda uno spettacolo tratto dal libro autobiografico di Pier Giorgio Welby, Ocean Terminal, quindi sul diritto alla morte, contro l'accanimento terapeutico, insomma uno spettacolo importante con Emanuele Vezzoli, che lo ha anche adattato drammaturgicamente, diretto e interpretato, e poi anche perché ieri è stato il 7 aprile e quindi ho detto facciamo questo abbinamento, perché poi ricorreva il 7 aprile del 1979, tu eri stato uno degli arrestati e in base al teorema Calogero questo lavoro di Antonin Artaud è prettamente radiofonico, è un lavoro del 1947, ha subito una censura ultraquarantennale, e insomma mi sembrava un buon abbinamento. Ecco. Beh, ti ringrazio molto. Oreste, partiamo dal lavoro di Antonin Artaud. Scusa, mi permetti una piccola cosa? Sì, sì. Volevo dire qui, ho fatto a tempo negli 8 minuti che mi hai dato, preavvertendomi, a chiamare i due compagni di Terni che erano stati miei complici in questa cosa, anche lì fatta veramente all'impronta, ed erano Davide. Sì. E Alessandro Scalondro, che sulla base di un così coup de cœur, come dicono in Francia, ci trovavamo a Terni per la presentazione del libro Maelstrom di Salvo, che è tuttora un collaboratore della radio. Sì. E c'era Valentina Baruda, poi loro ripartivano per Roma, e il discorso era caduto anche con altri compagni di Terni su questo pezzo famosissimo di Artaud, sul radiofonico, eccetera. E poi, come si dice a Roma, cotta e magnata, nel pomeriggio succede che Alessandro aveva, perché è veramente un uomo savant e colto, un'edizione di Pour en finir avec le jugement de Dieu, col testo a fronte italiano e francese, e andammo a girarlo in questo posto, Galleto, dove c'era stata la grande centrale di Galleto sotto Papigno. Sì, era sì, un posto sì, che all'epoca in cui ci andavo io c'era ancora la Calcio Scianamide che ingrigiva tutti i davanzali, che era stato un po' un luogo vicino alla cascata delle Marmore, che è una cascata artificiale e a seguito del taglio di un fiume da parte di un console romano, Curio Dentato, è la cascata più alta d'Europa, quindi è come un destino industrialista. Alla fine dell'Ottocento diventa un sito, forse il più grosso sito di centrale idroelettrica, e poi quindi ci saranno le acciaierie, l'indotto, e quindi la produzione di guerra, i bombardamenti, e quindi le storie di Terni, città di immigrazione interna, per cui anche io vengo fuori da un incrocio tra immigrati, ma della fine dell'Ottocento. E vabbè, tutto questo è una storia personale, ma lì, tra quelle forre, quell'archeologia industriale, che so per esempio che a Papigno ci avevano messo anche gli studios dove hanno girato La vita è bella di Benigni, eccetera, in questo posto, così finendo mi pare sotto una luce verde intermittente di una croce verde di una farmacia nel mezzo di Papigno, abbiamo girato sta cosa, questa poi completata il giorno dopo da un altro video che sta in YouTube ugualmente, che si chiama Il cielo sopra Terni, anche lì in una terrazza al 12° piano di parenti, e volevo ringraziarli di questo e dire che però in Onda Rossa si è tornati alla purezza originaria del testo, che era un testo radiofonico. Sì, sì. E tra l'altro anche questo si trova diviso in 6 parti su YouTube. Oreste, il testo, dicevamo, un lavoro del 1947, cosa tenderesti a sottolineare di questo lavoro di Artaud? Beh, Artaud, non lo dico per conformismo, poi non è che sia un campo in cui io abbia un'erudizione nel senso buono, come per esempio ho sentito di te. Io funziono piuttosto in modo rapsodico, per flash, associazioni, sì, di idee, sì, quasi con un uso delle cose che spesso mi si accendono se non avessi fatto le scuole, e quindi fino alla laurea in filosofia, compacio all'abilitazione, tutto finirebbe liscio, perché sarei uno di quegli autodidatti, se avessi fatto l'operaio davvero invece che l'operaista, di quegli autodidatti che a volte possono risultare un po' pedanti, un po' eccessivi, però a volte si dice ma guarda questo. Così invece delle volte io non ho né il complesso né il compiacimento di questo, ho semplicemente uno scrupolo proprio di verità, no? La parresia, parresia come si dice, e quindi voglio mettere in chiaro che molte delle cose che vado raccontando sono realmente un po' da storyteller, da come si può dire, cantastorie, no? Cioè mi vengono in grande numero, come se mi risuonassero delle voci di gente anche, io penso, straordinaria, che mi è stata maestra, alcuni, non ne rifaccio una lista, parlo proprio di, innanzitutto di quelli di cui ho sentito delle cose dalla viva voce, sì. Mi può venire in mente da Tronti a Henri Lefebvre, a Gaspare De Caro, a Enzo Grillo, e poi potrei continuare. E quindi ci sono delle cose che ti scattano in testa ed sono un po' rapsodiche. Poi dopo, a partire da lì, potrebbe essere un giorno, non capita, ma un Cartiglio nei Baci Perugina con un haiku, un aforisma, qualcosa, allora poi lo vai a riguardare. Io magari, non so, su alcune cose posso telefonare a una sorella che ha insegnato lettere antiche, o ad altri, oggi come oggi, poi basta andare e seguire come una matriosca di scatole cinesi anche le cose che ci sono in questa specie di memoria certamente ambivalente, poi ambigua, anche terribile, ma poi anche pratica, che è questa seconda, terza natura virtuale, internet, eccetera. Allora voglio dire, Artaud, potrei fare un gioco di associazioni di idee, cosa mi ricorda, perché è stata una delle presenze come un po' un fiume carsico, e lì soprattutto devo dire sì, per essere, raccontare le cose come sono, che sono anche sintomatiche, questa riattenzione a per finirla col giudizio di Dio, che devo dire avevo già ascoltato e mi aveva colpito, no? Questa specie di teatro radiofonico di conferenza con questa sua voce inimitabile, fatto per radio, però l'avevo anche dimenticato. Perché mi è venuto in mente? Perché ad un certo punto è scattato il fatto che in quella che i francesi dicono la déchéance, secondo me un po' anche di decadenza un po' fisica, si invecchia, non è grave, c'è sempre, a un certo momento un sacco di gente diversa cominciò, un mio amico che allora è stato anche uno dei miei avvocati, Antonino Filastò, a provare che io avrei avuto, avrei una rassomiglianza con Artaud. Eh sì. E me l'ha detto la gente più diversa, mi hanno fermato in giro dicendo, e naturalmente la mia compagna e moglie Lucia, per fare dell'understatement a mio conto, dice sempre naturalmente, poi aveva trovato delle cartoline con le foto di Artaud quando era giovane, era bellissimo anche, no? Ha fatto l'attore e poi dopo alla fine è proprio lavorato con questo viso scavato, sventato, eccetera. Allora dice, vedi tu, facendo così, fumando un sacco di sigarette, non dormendo, eccetera, vedi, gli rassomigli sempre di più, te lo dicono perché sembri l'Arturo di questa fase. Allora io dico, vabbè, sia l'una o l'altra cosa. E poi un giorno Serge P, che è un personaggio di Tolosa, poeta, performer, che era amico di Félix Guattari e che mi aveva colpito, l'avevo sentito leggere al Boburi, in piazza, eccetera, delle cose bellissime che lui recita, interpreta, battendo dei bastoni lavorati, dandosi il tempo. C'era la poesia di André Lhote, che era un po' un poeta maledetto, diciamo, dei nostri tempi. E il giorno che era morto al mercato della poesia a Saint-Sulpice a Parigi, Serge P leggeva una poesia di Lhote che diceva: «Si je meurs», se io muoio, quando sarò morto. E poi con Serge P fu molto simpatico, lui faceva una specie di grande rappresentazione nel quadro di una rassegna Polyphonix che era fatta da Jean-Jacques Lebel, un amico di Guattari, al Beaubourg, e mi telefonò dicendo che era disponibile a fare una cosa assieme pochi giorni dopo l'estradizione proditoria del mio compagno e amico Paolo Pezzichetti, e facemmo una cosa al Beaubourg in cui lui girava, strizzava dei pomodori, eccetera, io suonavo con l'armonica un'internazionale rifatta, eccetera, e lui mi disse: «Senti, ma perché non mettiamo in scena Pour en finir avec le jugement de Dieu e lo fai tu?» E poi è rimasta così, soprattutto per causa mia. L'ho rincontrato a Bologna, al VAG, quando ero rientrato dopo la prescrizione. Lui è un altro poeta sardo, adesso per un attimo mi sfugge il nome. Sono cose che vengono lasciate e prese, e poi da ultimo mi era ritornato ancora, sono troppo lungo Federico? Mi era ritornato ancora proprio per questo titolo, Per finirla col giudizio di Dio, perché vedi, io non professo, intanto distinguerei ovviamente tra il sacro e la fede. Il sacro è una cosa più profonda, può essere ritualizzata, può essere, ma voglio dire, può rispettarla e sentirla anche il materialista critico più convinto. E anche il termine religione viene da religio, non è il legein, che vuol dire classificare, mi pare, in greco, come psicologia, filologia, è il legame, il lien. Quindi, beh, Pasolini, che naturalmente ha delle cose grandi, anche se non penso che andrebbe preso come per rimpiazzare Marx dal punto di vista dei concetti, però scriveva, così come il titolo Le ceneri di Gramsci, la religione del mio tempo. La fede è altra cosa, e devo dire, mi trovo a non essere, almeno da quando avevo 12-13 anni, a non avere una fede, né la fede in un Dio monoteistico, quale che sia, né la fede alla Sartre, in un umanismo e quindi una fede atea, che richiede ugualmente un passaggio di fede, e meno che mai la, virgolette, fede nel comunismo. Lo si può dire in una canzone, ma se fede è altra cosa. Comunismo è un senso di comunanza, implica un richiamo a qualcosa che sotterraneamente c'è, un radicale che è comune, comunanza. Poi c'è un'accezione che, se vuoi, è rivenuta così formalizzata nell'Ottocento, forse all'epoca dell'abbattimento della colonna Vendôme, e che Marx riprende, lo chiama comunismo critico moderno, e si fonda certamente su questa istanza della comunanza, non c'entra con collettivismo. Il binomio individuale collettivo, secondo me, esprime delle astrattezze alienate, preferisco singolare e comune. Quindi comunanza non nega, anzi esalta la singolarità, la differenza, e tutta la gamma infinita delle differenze, nel senso un po' di Deleuze e Guattari, ma non disconosce questo elemento comune, questo che Marx chiamava la Gemeinwesen, un fondo comune ontologico di tutta la specie, non per dire che la specie è nemica delle altre specie viventi o che diventa un universalismo in nome del quale si spiacciano poi i particolarismi e viceversa, però c'è questo fondo ontos, qualcuno l'aveva tradotto in comontismo, questo fondo comune di specie, di riconoscimento, di appartenenza a questa specie parlante, paroletaria, di esseri parlanti, specializzata nella parola e perciò stesso pericolosa perché ci esporta fuori dall'essere e quindi ha incontrato anche la conoscenza ma anche la maledizione di tutti i dualismi, felice, infelice, senso, non senso, prima e dopo, eterno e mortale, ha inferito la mortalità, eccetera, eccetera, eccetera, homo sapiens sapiens, che non potrà mai più essere retto da un codice geneticamente trasmesso di autoconservazione della specie e per questo è intriso di infelicità, ovviamente, ma anche in qualche modo, non so, non voglio darne giudizi di valore, è consustanziale a questa specie dell'Homo sapiens sapiens, certo il senso della mortalità, ma la rivolta per esempio, ma il riso, ma la parola. E dunque, voglio dire, le api sono api operaie, non esiste uno sciopero delle api operaie, né esiste un carattere, diciamo, penale di colpa, non esiste il felice e l'infelice, non esiste nemmeno il colpevole e l'innocente, almeno allo stato attuale delle conoscenze che circolano. E quindi questa specie umana è singolare e da questo punto di vista il mio problema non è tanto la discussione ontologica se sei di una fede o di un'altra. Io penso che la cosa limite dei credenti è l'apparente paradosso di Tertulliano, di Anselmo, credo quia absurdum, credo perché è assurdo. Quando la gente si stupisce che Teresa di Calcutta dice che lei dubita almeno due volte al giorno, ma è dentro la dottrina teologica, perché se la fede proponesse delle evidenze che vanno assieme col senso comune, con la razione e la razionalità corrente, che merito si avrebbe? È proprio perché è assurdo a un certo momento l'oggetto della fede, credere nell'Immacolata Concezione, cioè è vertiginoso, no? La persona che è una, che è trina. E quindi la fede è fede ed è un'impresa quasi impossibile quella degli ellenisti aristotelici, un po' come Ratzinger, che tentano di vedere che in fondo è la stessa cosa, perché se Dio ha creato tutto, gli scienziati alla fine della loro ricerca rincontreranno Dio nei principi informatori del cosmo. Il qui absurdum, per cui anche l'assoluta fede atea di Sartre, che dice atea, assolutamente, totalmente, interamente ateo, è comunque un atto di fede. Pascal in fondo è utilitarista, no? Perché ti dice scommetti, tanto ti va meglio credere, perché se non c'è niente non hai perso niente, e se invece c'è qualcosa, compreso il paradiso e l'inferno, hai fatto una scelta opportuna. Ma è utilitarista, Pentamiano, anche litera, insomma. Quindi voglio dire, il problema invece che trovo terribile, contro cui mi batterei come una postata, com'è, è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. Perché il giudizio di Dio, soprattutto per chi non ha la grazia di credere, e anche io non ce l'ho, essendo una proiezione umana, lo potremmo scrivere giudiz apostrofo io di apostrofo io. Un io che fin tanto che è proprio singolare, e vabbè, è una matrice individualistica, certo che ognuno è unico e irripetibile, ma se pensa che lui è l'unico unico, mentre gli altri sono fatti in serie con lo stampino, la cosa porta lontano. E se questa identità diventa patria mia, basta che tutti si mettano d'accordo, finalmente unanimi, e la dicano all'unisono, ed è il massacro generalizzato e la soppressione della specie, perché perciò stesso se io dico patria mia soprattutto e nella sua lingua la stessa frase la dice quello che mi sta di fronte, tra grandi, piccole, micro, patria, si capisce come finisce. Allora questo giudizio di Dio, questo paradigma della colpa, questa morale che viene introdotta, questo direbbe Girard, coniugare il rito ancestrale, antico, apotropaico del capro espiatorio con una moralità intrinseca che viene attribuita, la colpa, l'innocenza, il carnefice, la vittima, tutta questa pesantezza di questa universalizzazione surrettizia di una moralità, vittimarietà, legittimità che ognuno vede in sé e nei suoi e nega agli altri. Questo è tremendo. Ci hanno voluto, dai filosofi ai chiacchieroni, ai soloni impancati, dichiarare abietti perché abbiamo parlato di inimicizia. Io non vi parlo. Inimicizia c'è. Come spiega bene, trovo, Foucault, sotto la pace civile, la pace sociale, che poi ve la raccomando, sotto cova il paradigma della guerra, più che andando ben oltre e rovesciandolo, Clausewitz che parla di guerra come prosecuzione della politica con altri mezzi, anche Lenin lo riprende, Foucault dice no, è la politica che è una delle forme trasferenziali sublimate, lo si dice spesso per i linguaggi, no? Quello della politica, quello del commercio estero, quello delle carriere, quello della meritocrazia, quello dello sport, che sono mutuati dal linguaggio della guerra. Quindi l'inimicizia c'è, la si può rimuovere, si può fare un diniego, una denegazione del negazionismo rispetto a quello, dire ah no, non sia mai, non esiste il nemico, per carità, quello è solo un avversario, e poi trovi che è un concorrente a morte e quindi può diventare il demone assoluto cacciato dall'umano, abietto, vaso di Pandora di tutte le abiezioni, perché le propagande fanno così, ognuno proietta il proprio interesse particolare, lo oggettivizza, lo universalizza, lo moralizza e invece esporta in faccia al concorrente, a quello che gli sta di fronte, al dirimpettaio. È come un gioco di specchi da ritratto di Dorian Gray, riproietta tutto il negativo, il beck, l'aspetto di cuore di tenebra e lo attribuisce e schiaffa in faccia all'altro e viceversa spesso. Allora ecco, in questa folla di desideri mimetici, direbbe René Girard, il giudizio, la pretesa intanto di attingere la verità ultima ad arrivarci, cioè la più profonda, che forse non è la prima, insomma, come nell'archeologia, e pretendere di attingere la natura vera di una persona, e nemmeno lui, nemmeno un altro potrebbe, per chi è credente è una bestemmia, perché è solo una proprietà dell'onniscienza del Dio o di chi ne è interprete a T3, a mezzo titolato, insomma, a mezzo di che ne so, Ordalia o altri mezzi atroci, se no è uno pseudo problema, è inattingibile dare un giudizio definitivo sulle buone o cattive intenzioni prime, primigenie, cioè ultime da poter sfiorare dell'uno o dell'altro. Invece l'inimicizia esiste, si misura sui dispositivi, sugli effetti, sui risultati. Io non faccio il prete per capire quanto è atroce il peggio mostro, che ne so, razzista, colonialista, assassino, non faccio il mestiere del curatore della sua anima, dico che invece è un nemico per quello che dice e per quello che fa, e l'inimicizia la stabilisco sulla base, a rischio di sbagliarmi, di un tentativo, la stabilisco insomma sulla scorta di cose che sono venuto imparando, credo. Il problema delle intenzioni è veramente secondario, è anche il problema di demonizzare eccetera, e quindi in questo senso la genealogia del moralismo è terribile, perché poi il moralismo è quasi sempre anetico, cioè si applica agli altri e viene sospeso su di sé, enuncia dei giudizi penali, colpevolistici, mortali, terribili, ma nel dirli si considera che chi li dice è absolutus, si dice legibus absolutus, è disciolto da queste stesse leggi che enuncia e vuol far valere per gli altri. Questo è proprio consustanziale, intrinseco da sempre. Quindi questo giudizio di Dio, che oggi poi è nell'epoca della sua riproducibilità tecnica all'infinito, nel virtuale, su internet, nelle cose, diventa molecolarizzato, no? Disseminato, c'è come una microfisica, 6 miliardi di microleviatani, e ognuno si prende per l'unico, quello giusto, quello buono. Cioè, in fondo, le metastasi sono la democrazia del cancro, la democratizzazione del cancro, e il giudizio di Dio oggi è metastatizzato. Uno potrebbe osservare le cose che dico io nel quadro di un elogio, non so, della misericordia, della tolleranza, cosa comunque rispettabile, ma io non lo dico da questo punto di vista. Dico che questa metastatizzazione del giudizio di Dio è quella che oltretutto impedisce qualsiasi pensabilità di una sovversione, di una pratica, di una potenza, la vogliamo chiamare rivoluzionaria, sovversiva, liberatrice, insomma, in cui si abbia il concetto della barricata e al tempo stesso l'attenzione a quello che sta al di qua della barricata, le forme di vita, le forme di relazione. Non c'è contraddizione tra il dire cambiamo la vita oggi, o allora dire che non si può cambiare la natura delle relazioni anche minime quotidiane fin tanto che non c'è la rivoluzione, la base materiale, che è un discorso che e poi è la mezzamela di quell'altro. Non si può fare nessun grande cambiamento, nemmeno pensarlo, rivoluzione eccetera, che esca proprio dai campi semantici, dai quadri attuali, intanto che nel nostro comportamento continueremo a tutto sommato usare il telefonino, avere delle relazioni sociali non modificate. Allora, non, questo non si può fare senza quello come precondizione, quello non si può fare senza questo come precondizione, e quindi si sta in una specie di cappio vizioso che ci porta a fondo, mentre si può vedere di coniugare, di articolare le cose, perché no? Bene, questo era per farla finita col giudizio di Dio, con l'intervento di Oreste Scalzone, che l'ha interpretato dal testo di Antonin Artaud. Tra l'altro io avevo avuto modo di ascoltare una registrazione originale della voce di Artaud, che anche questa è disponibile su YouTube, e oltre alla tua somiglianza fisica c'è anche una somiglianza fonica, perché le vostre voci in qualche modo si somigliano. Oreste, è stato... Diciamo, Federico, per non pavoneggiarsi, un po' l'avevo sentita anch'io alla Bord, da un compagno di Foligno che stava alla Bord e che almeno lui diceva che faceva teatro radiofonico, e che me l'aveva fatto sentire, e devo dire mi aveva colpito, quindi ho un po' cercato di fare forse del capotinaggio, di isterismo e imitarlo un po'. Allora, è stato un piacere, Oreste, alla prossima a questo punto. Anche il mio, e grazie e un saluto a tutti. Un abbraccio, ciao. Ciao, un abbraccio, Federico. Ciao.